La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori, buon inizio di settimana in questo lunedì 31 di marzo, l'ultimo giorno di marzo. Auguri a chi si chiama Beniamino, oggi è San Beniamino. E vado subito al tema della trasmissione, perché se volete chiamarci, visto che è cominciata esattamente da 5 minuti la riunione del Consiglio dei Ministri dedicata al disegno di legge per la trasformazione, per la riforma del Senato, quello che sta facendo molto discutere, sta di nuovo bloccando su un nuovo argomento con tante obiezioni al Presidente del Consiglio che vuole andare avanti, chiamateci per dire che cosa avete capito, se lo volete come Renzi non più elettivo. Io non lo voglio più elettivo, penso che se c'è un Senato ancora elettivo poi dovrebbe votare la fiducia al governo. Non riesco a capire quelli che dicono facciamolo elettivo e poi gli neghiamo il potere di votare la fiducia al governo e le leggi di bilancio. Ma detto tutto questo, mi interessa capire che cosa arriva a voi di tutta questa confusa partita in cui il Presidente del Senato e molti esponenti del PD all'ultimo secondo hanno detto no, non ci piace questa cosa, e in cui c'è una vasta sollevazione di intellettuali della sinistra oltre PD, come Zagrebelsky, Rodotà, che insieme a 5 Stelle sottoscrivono un appello contro le riforme autoritarie di Renzi. Sono un po' i toni che si riservavano in passato a Craxi tanti anni fa. Comunque, chiamate per questo, ma la trasmissione di oggi è un fatto dovuto per me, perché a proposito di riforma del Senato e del titolo quinto della Costituzione, perché quella è la parte poi in cui si incardina il tipo di Senato che vogliamo immaginare, deve dipendere un po' da come cambiamo il titolo quinto, quindi i rapporti tra Stato centrale e autonomia. C'era una trasmissione però da dedicare al Veneto che era rimasta pendente dopo quelle che abbiamo dedicato durante la settimana nella quale era stata indetta questa consultazione libera online per l'indipendenza del Veneto, e ci eravamo lasciati con la promessa che avremmo parlato delle verifiche, dei controlli rispetto al meccanismo di voto, vista l'imponenza di quei 2 milioni che venivano dichiarati dagli organizzatori come partecipanti alla libera consultazione, in cui c'erano 4 quesiti sottoposti a chi fosse andato sul sito plebiscito.eu, però il primo era quello appunto della separazione, dell'indipendentismo. E allora, visto che poi molti mi hanno anche stuzzicato dicendo tu ne hai parlato, hai sposato la causa, no, io continuo a pensare che fosse giusto parlarne. Non ho condiviso in niente l'atteggiamento dei giornali che dicevano ma questa è una buffonata sin dall'inizio. Buffonate si vedono ex post, non ex ante, visto il tema. Però oggi noi dobbiamo tornare sull'argomento, perché come sacrosanto c'è chi poi si è dedicato al controllo di quel meccanismo di voto e di verifica dei voti dichiarati. E quindi è con noi il direttore del Corriere del Veneto, Alessandro Russello. Grazie di essere con noi oggi pomeriggio, direttore. A voi, buongiorno a tutti. Allora, voi avete applicato dei controlli, cioè anzi avete ingaggiato, per così dire, avete chiesto alle società specializzate di controllare i flussi di voto e i click, il traffico insomma in ingresso su quel sito, corretto? Certo. Certo, l'abbiamo fatto, vorrei fare una piccola premessa, certo. Nel senso che noi siamo stato il primo giornale in Veneto, nel silenzio assoluto, a dare conto di quel referendum degli indipendentisti, e dividendo molto bene l'aspetto legato al conteggio dei voti, quindi separando l'aspetto della certificazione dal dibattito sacrosanto, come dicevi tu, sulla richiesta, rivendicazione di forme di autonomia, di indipendenza di una regione stretta fra altre due statuto speciale che va avanti non da adesso ma da circa 20 anni, dalla nascita della Liga Veneta, dalla Lega, e poi con le rivendicazioni legate alle tasse e alle forme di autonomia del Veneto. Quindi in questi giorni peraltro abbiamo fatto anche ampi servizi anche legati alla domanda, sentendo intellettuali venetisti come Rocchetta, sentendo storici, proprio chiedendoci se il Veneto è un popolo. Quindi la mia premessa è importante, perché in questi giorni siamo passati per il giornale che ha condotto una campagna contro i venetisti. Nulla di tutto questo. Apprezzo Alessandro che tu voglia chiarirlo, sì. Perché io ho il problema opposto, io passo invece per uno che li sposa a prescindere dal tema. Qui il problema è parlarne e poi verificare, controllare. Bravissimo. Il mestiere è quello. L'unica forma di indipendenza che dovrebbe avere una persona e un giornalista in particolare è quella dalle ideologie e dalle tesi. Il giornalismo a tesi a me non piace. Per cui abbiamo semplicemente di fronte a questo numero monstre di 2 milioni e 300 votanti che ha fatto storcere il naso a tutti in questo clima surreale nel quale tutti davano conto o meno di quello che stava accadendo, abbiamo semplicemente chiesto a tre società di traffico che monitorano il traffico a livello internazionale, che sono Alexa, Calculstat e Traffic Estimate, separatamente di dirci qual era il traffico che loro avevano rilevato nei giorni di picco, che sono i giorni del referendum. Quindi, fatte le medie, sostanzialmente loro separatamente, tutti e tre ci hanno detto che la stima che loro hanno fatto era attorno ai 22.500-23.000 contatti quotidiani, sostanzialmente, non 2.300.000 voti come autocertifica il plebiscito.eu, ma attorno ai 135.100-100.000 voti, che non sono pochi, peraltro. Per cui semplicemente abbiamo dato conto, e anche rispetto a tutte le domande che si erano fatti gli altri colleghi degli altri giornali, non ultimo il fatto che in Veneto, contando che il 55%-60% dei veneti è collegato a internet, e avendo votato alle regionali del Veneto 2.500.000 cittadini, perché questi 2.300.000 voti possano avere un riscontro oggettivo, bisognerebbe che tutti i veneti in quei giorni fossero andati, avessero votato per il referendum di plebiscito.eu. Allora, siccome però io questo è anche, voglio dire, in astratto possibile, noi abbiamo fatto un lavoro semplicemente di verifica, quello che dovrebbe fare ogni giornale, nel silenzio assoluto, e abbiamo trovato questi dati. Questo è quel lavoro che abbiamo fatto noi. Abbiamo sentito anche una quarta società che certifica, italiana, adesso non ricordo bene il nome, che ci ha addirittura detto che loro non hanno potuto rilevare questi dati perché il sito è troppo piccolo. Questo è quanto. Molto bene, io dirò, Alessandro, stamattina io sono andato e tornato da stamattina alle 5 a Bassano, perché c'era un convegno organizzato dai commercianti di Venezia e di Belluno, eravamo a Belluno, e a dire la verità anche lì ho fatto un test, cioè mi sono preoccupato di capire, ma voi, diciamo che coloro che partecipano alla vita associativa dei commercianti di Belluno e di Venezia, che erano lì, mi hanno tutti guardato abbastanza storto. La cosa particolare è che invece, che nei giorni in cui era in corso la libera consultazione, molti colleghi di trasmissioni televisive, di testate nazionali televisive, sguinzagliando gli inviati per le piazze del Veneto, raccoglievano però anche, voglio dire, di testate proprio di cui non si poteva supporre in alcun modo e pensare che fossero, per così dire, collaterali o sostenitori di questa iniziativa. Sembrava invece che la gente per strada si rispondesse non solo sapendo dell'iniziativa, ma anche il più delle volte dicendo sì, voto, voterò, eccetera, eccetera. Da che questo tipo di mismatch che si è verificato, da che cosa dipende, secondo te? Guarda, allora, potrei dire allo stesso modo che io ho fatto un test a Campione con persone di diverse sezioni culturale e politica, e pochissimi mi hanno detto che avevano votato, ma questo non importa. Quello che dici tu invece conta, cioè c'è un sentimento diffuso legato a una dimensione politica, economica, antropologica in Veneto. Ricordiamo che il Veneto è diventato italiano 6 anni dopo, nel 1866. Lo stesso Bossi ha sempre detto che se c'è uno Stato, una regione, un popolo, tra virgolette, antistatale, questo è il Veneto. Quindi è sempre albergato in Veneto un sentimento rivendicativo rispetto alla propria storia e anche rispetto alla propria condizione economica. Il Veneto è una regione che ha fatto molto fatica, al nord-est in genere, ad uscire dalla povertà e dalla miseria. Sergio Saviani ha detto che per tanti anni ci siamo portati appresso la fame vecchia, cioè il ricordo, la memoria della povertà, e quindi è uscita come un vulcano da terra, costruendo un'economia, prima atomica, poi legata ai distretti lunghi, all'innovazione, eccetera, eccetera, che ha portato il Veneto ad essere un piccolo stato economico per alcuni aspetti. Non dimentichiamo che alcune regioni, alcune province del Veneto hanno il PIL del Portogallo, come quella di Vicenza. Per cui Ora, il dibattito sulle forme di autonomia del Veneto, sul sentimento della richiesta del Veneto di una maggiore attenzione da Roma è vivo, ma secondo me non va intestato ad un referendum, obiettivamente un po' così, che non fa che, secondo me, è stato gonfiato, perché dai dati che io ho, però non ci metto la mano sul fuoco, sono sempre pronto ad avere una certificazione su questi voti. Contrario, e l'unica certo. certificazione ce la può dare solo un soggetto, si chiama Google. Allora, anche i referendisti da 10 giorni dicono che mostreranno i dati, finora non hanno mostrato nulla, sono loro che potrebbero raccontarci la verità, certo. perché l'unico che è in tasca la verità è Busato, che è il leader. E che abbiamo sentito all'epoca, sì. Esatto. E allora mi chiedo come mai Busato non dia, non chieda la certificazione a Google e Google finalmente ci dica quanti voti, perché Google ha gli ID dei computer, sì, i profili sì. dei computer, quindi, ma lasciando perdere questo, perché a te giustamente io sono d'accordo con te, interessa altro. No, io vanno separati, mi sono là, sporto, io voti, sottoscrivo la tua idea, cioè secondo me Busato a questo punto deve dar conto se vuole risultare credibile, perché altrimenti poi occorre archiviarlo nel colore di chi vuole strumentalizzare. Noi in 20 anni qui. C'è stata tanta regola gente. Ti dico ad esempio che domani pubblicheremo un servizio dove parlano altri indipendentisti e nessuno di loro sta con Busato, ma poi fra di loro ci sono invidie, ci sono Livori e tutta gente che è uscita dalla Lega, sono sognatori, secondo me non sono minimamente, si parla addirittura di pericolo, per carità, un indipendentista 7 mesi fa ha sparato un direttore di banca, io mi auguro, ma per un fatto probabilmente questo, anche personale, sì, ma non c'entra nulla, non per c'entra me tutta gente pacifica, gente che culturalmente ritiene, culturalmente e politicamente che il Veneto possa essere uno stato indipendente, dopodiché se vai a chiedere agli imprenditori del Veneto, io penso che non abbiano nessun interesse, non, il Veneto piccolo stato che ingaggia le battaglie economiche con la Cina, già l'Europa fa fatica, figuriamoci certo. Veneto, ma al di là di questo discorso di merito, è indubbio che il Veneto sta vivendo uno scarto rispetto alla disattenzione di Roma. Senato si discuterà del titolo quinto, come sono dicevi d'accordo. Tu, del titolo quinto, all'interno del quale sembrava nei giorni scorsi, e la notizia l'abbiamo data noi, che il PD, quindi Renzi, i tecnici che stavano sostanzialmente formalizzando la proposta sulla revisione del Senato, avevano tolto proprio l'articolo che dà alle regioni la possibilità di chiedere forme di autonomia. Oggi si deciderà e noi stiamo aspettando di capire se il governo nazionale ha capito che in Veneto esiste un problema che non è solo tanto quello di un referendum per l'indipendenza, ma è quello di una terra che è anche solidale, perché il Veneto vive certo. di una autorappresentazione con degli stigmi particolari e con una rappresentazione esterna secondo la quale tutti i veneti sono xenofobi, evasori, eccetera. Vive il Veneto le contraddizioni, certe contraddizioni, ma è indubbio che c'è una forte richiesta di allineamento ad altre forme di autonomia, perfino chieste e guidate dal PD. In Veneto a contestare Renzi, come noi abbiamo scritto, facendo l'apertura del giornale di 3 giorni fa, sono i veneti che stanno contestando il governo in questo momento, che stanno costringendo Renzi, e oggi vedremo se il Veneto verrà ascoltato, a non cancellare questo articolo che potrebbe dare al Veneto una forma di autonomia da andare a concertare con lo Stato. Sono d'accordo anch'io che secondo me non si presta molto attenzione, mentre se ne ha molto al Senato elettivo o meno, l'abolizione del numero, la dimensione parlamentare e così via, il problema è quale equilibrio tra centro e richieste che vengono dalle autonomie. Per dare un'altra cifra a chi è in ascolto, pensate che sui 30 miliardi di attivo della bilancia commerciale italiana nel 2013, complessivi come nazione, pensate che il Triveneto fa 42 miliardi di attivo commerciale da solo e il Veneto ne fa 18 da soli nel Triveneto, capite? Poi naturalmente ci sono le altre regioni che vanno in disavanzo commerciale e quindi facciamo 30 miliardi di attivo. Eravamo 30 miliardi in deficit fino al 2008, quindi abbiamo raddrizzato la bilancia commerciale, diminuendo le importazioni, visto che abbiamo tagliato i consumi, però pensate che il Veneto da solo vale più di 17 miliardi di attivo commerciale, e sono un po' anche queste cose che si sentono poi nel tessuto sociale di quella parte d'Italia. Siamo in ritardissimo con le strade. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta a 16:51 e 12 secondi. Abbiamo sentito il direttore del Corriere del Veneto Alessandro Russello. Sono loro, la loro testata, che hanno chiesto a 3 società di certificare i dati della libera consultazione indipendentista al Veneto, di cui noi abbiamo molto parlato, ci siamo anche attirati molte polemiche. I dati li avete sentiti e continueremo però a occuparcene mentre è in corso la direzione del PD sulla riforma del Senato e del titolo quinto, che tante polemiche solleva. Sentiamo l'opinione di alcuni ascoltatori proprio su questo punto. Iniziamo da Filippo, che ci chiama da Napoli. Prego Filippo. Sì, buonasera, sono Filippo Della Monica, in realtà faccio parte della segreteria politica di un comune piuttosto noto, ahimè non tanto per vicende positive alla cronaca, Giuliano, diciamo un cuore pulsante della cosiddetta terra dei fuochi. È quindi un comune difficile, dove anche impegnarsi è meritorio, secondo me, a prescindere da qualunque credo politico, però quelle sono le parti in cui fare attività pubblica, civile, eccetera, eccetera, secondo me è fondamentale. Conosco il comune, ohimè, e quindi... Io posso dire che con Matteo Renzi, al di là di ogni considerazione, che di ogni critica assolutamente legittima, perché posta in un determinato modo, io quello che dico di me stesso è che Renzi mi ha permesso di scoprire che la laurea in scienze politiche che posseggo, insomma, ho scoperto che a 40 anni che posso servire anche per fare politica. Non mi contrapporrò alla sua ospite precedente, perché ritengo che oggigiorno bisogna marciare in una stessa direzione, che è quello che sta cercando di fare il nostro premier. Bisogna evitare di usare il metodo 5 Stelle per polemizzare a prescindere. Certamente Matteo Renzi non ha accettato diventare il premier della Danimarca, per esempio, ma di un paese dove le difficoltà ci sono e dove bisogna mettersi e cercare di superarle. Poi ogni cosa è migliorabile, anche le discussioni di questi giorni penso che siano utili. Ma a te che impressione fa il Presidente del Senato, che poi deve anche al PD la sua indicazione, che il giorno prima della direzione si sveglia dicendo, esponendo un controdisegno, dicendo no, deve essere elettivo, deve essere fatto così, deve essere fatto cos'ha, eccetera, eccetera. Che impressione ti ha dato? Era un'esca, una parte del partito, è una cosa... È un'anima lei ha molta più esperienza di me, anche se io faccio parte chiaramente del Partito Democratico. Sicuramente sappiamo in che modo Matteo Renzi è arrivato a diventare prima segretario e poi presidente del Consiglio. C'è una componente della non voglio usare, oggi non si dice più vecchia, si dice vintage, no? Quindi che magari non è proprio in quella direzione lì. Vorrei dire ai tanti imprenditori del Nord-Est, che sono una parte importantissima del nostro paese, io ho studiato la piccola e media impresa e so come poco si è fatto per questa parte del paese, della delusione che in oltre 20 anni di centrodestra, dove le aspettative erano tutte rivolte per un certo signore di Arcole che dalle mie parti viene spesso per cuore o vicende. Quindi insomma tu non c'hai uno spirito di visione, dici io vi capisco, per questo insomma andiamo avanti con le riforme. Grazie per questa idea. E abbiamo con noi il professor Marco Bassani. Marco Bassani insegna storia delle dottrine politiche alla Statale di Milano, ha scritto molti libri sui padri della rivoluzione americana, sulle radici della rivoluzione americana, e da questo punto di vista quindi è anche una persona che, su come si costruiscono edifici istituzionali complessi e come però, per esempio, esempio americano, si tenga una radice molto solida con la rappresentanza dal basso, diciamo ha un occhio particolare rispetto a quello che è successo quindi in Veneto e a questa specie di doccia fredda sui dati. Che ne pensa il professor Marco Bassani? Conta di più comunque quello che è avvenuto, oppure la doccia fredda su questa lettura dei dati che abbiamo sentito dal direttore del Corriere del Veneto, dal suo punto di vista, professor? Ma io non so veramente quali siano i dati corretti. Io, a dire il vero, conosco Gianluca Abusato e mi fido abbastanza di lui, nei limiti. Il punto fondamentale è che cosa i veneti, del tutto evidentemente, tutti i sondaggi dicono che vogliono costituire il proprio Stato indipendente, vogliono dare al problema Italia la soluzione più semplice. Esistono dei momenti nella storia in cui la soluzione più semplice è anche l'unica fattibile. Ci raccontano da 20-25 anni, ormai un quarto di secolo, che si parla di riforme e così via, non accade assolutamente nulla. Ora bisogna dare una risposta abbastanza precisa. Qualora la maggioranza dei veneti fosse a favore della Costituzione attraverso ovviamente un referendum molto chiaro, nel segreto dell'urna, con una campagna elettorale evidentemente aperta a tutti, a chi difende l'italianità del Veneto e così via, decidesse di costituire il proprio Stato indipendente, cosa farebbero? Manderebbero i carabinieri? È chiaro che questo non può accadere, no? Non viviamo in un mondo. Lei sa, professore, che un'interpretazione che va per la maggiore è quella che l'articolo 5 in realtà impedisce di pensare a un referendum in quei termini, un po' come il governo di Madrid dice ai catalani. Ma questo è evidente, non si può fare una secessione costituzionale, non esiste. Era quello che diceva anche Abramo Lincoln, e poi causò 600.000 morti nella guerra civile americana. E la Costituzione americana era muta sul punto. Apparentemente le nostre costituzioni centraliste europee del Novecento non lo sono affatto. Sembrano dire non si può fare. Ora la questione è veneti e lombardi. I lombardi lasciano il 20% della loro ricchezza al resto del paese, no? o in giro per il mondo. I veneti soltanto il 10%. Questi circa 70-75 miliardi di euro sono l'olio che fa girare la politica. E quindi di fronte a questo le dice: il problema è storico, è sotto i nostri occhi, vedremo. Questa è l'opinione del professor Marco Bassani, ma continuiamo a occuparci, continuate con Radio 24, appuntamento con me a domani.